24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Per il discorso dei numeri di contagiati in relazione ai tamponi utilizzati, secondo me è importante che continuino a usare la stessa metodologia di utilizzo dei tamponi, perché solo così si riesce a sapere qual è il trend, perché se cambia da un giorno con l'altro la metodologia di uso dei tamponi, dopo non ho più sotto controllo quello che è il trend. Grazie. Davide Vancario, forza, forza! Dai ragazzi che si supera tutto. Speriamo davvero, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la terza parte di 24 Mattino, sono le 8, 17 minuti e 38 secondi di giovedì 26 marzo. Di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Citavate prima con il direttore Fabio Tamburini l'importante incontro che c'è oggi sull'Europa, la richiesta dei nuovi paesi avanzata soprattutto da Italia e Francia e da tutti gli altri per il lancio dell'Eurobond. Ma io dico, con tutta la, come dire, la freschezza che può venire dalla lettura dei giornali stamattina, basterebbe che questi leader leggessero le prime pagine di tutti i giornali europei, che hanno tutti lo stesso allarme, lo stesso problema. Noi parlavamo delle morti nelle case di riposo, lo citavamo prima, è il titolo delle Figaro, la tragedia delle persone anziane che muoiono nelle case di riposo a porte chiuse. Parlavamo della cassa integrazione che verrà varata nelle imprese italiane, beh, è il titolo del Guardian, la Gran Bretagna è uscita dall'Europa ma i problemi ce l'hanno anche le imprese britanniche. Ora, se il male è comune, bisognerebbe trovare una risposta comune, e lo dicono europeisti di provata fama, non soltanto il già citato Mario Draghi nell'intervista al Financial Times, ma lo dice anche Enrico Letta questa mattina in un'intervista alla Stampa. Dunque, l'Europa si gioca veramente tutto, come diceva Fabio Tamburini prima, e se non coglierà questa occasione, sarà anche colpa di chi l'Europa a questo punto non la vorrà più o la vorrà a doppia velocità. I paesi del nord da una parte e tutti gli altri dall'altra. Sì, poi là ci si può comunque dividere, ci si può dividere sugli strumenti da utilizzare. Questo non è che è vietato. Se la Germania, Germania è contraria, bisogna usarli gli strumenti. Sì, dico, se la Germania è contraria agli eurobond e vuole utilizzare degli altri meccanismi, per esempio l'utilizzo del fondo salva stati con condizioni legate al fatto che questi soldi vengano utilizzati per l'emergenza Covid-19, insomma, anche quello può essere uno strumento senza necessariamente arrivare agli eurobond. Comunque vedremo come andranno le cose. Vedremo che cosa decideranno. Vedremo come andranno le cose. Sospetto che invece ci voglia, come dire, spingere non la Germania, ma alcuni paesi del nord ci vogliano spingere verso una deriva greca, come giustamente rilevava anche Fabio Tamburini prima. C'è questo sospetto, c'è. Oggi vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Di certo, come ha detto Mario Draghi, insomma, esitare potrebbe essere esiziale. Andiamo però nella carne di questa emergenza, scusate l'espressione, con Brescia, che insieme a Bergamo è il comune più colpito, 6.500 contagiati in provincia, 156 morti. E Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Purtroppo sono 156 morti nella sola città. Nella sola città. E sono Del Bono solo quelli accertati. Quelli accertati. Tenga conto che in provincia di Brescia ci sono stati più di 900 decessi. E sono quelli accertati. La realtà è che c'è un sommerso del quale non sappiamo molto poco. Avete delle stime voi? Guardi, qui voi sapete benissimo che c'è in corso questo dibattito molto acceso intorno alla mancata diffusione del tampone in Lombardia rispetto ad altri modelli che hanno seguito altre strade. Noi non sappiamo esattamente quanti sono i reali positivi, perché oggi noi sappiamo che i tamponi vengono effettuati o per le persone che vengono ricoverate o ovviamente i casi molto conclamati di coronavirus, mentre invece ci sono ancora tantissime persone che stanno nelle loro case, che sono malate, che hanno una febbre alta, che hanno dei sintomi di coronavirus, che vengono seguiti via remoto dalla rete dei medici di base, ma che non sono mai stati sottoposti a tampone, così come non c'è mai stata una verifica diffusa, diciamo, della condizione di positività all'interno delle case di riposo, eppure la mortalità in alcune case di riposo è nettamente cresciuta, ma non sono stati fatti tamponi né prima né dopo la morte di alcune persone, quindi è ragionevole pensare che il numero dei positivi, non solo i cosiddetti asintomatici, ma anche quelli sintomatici, e il numero dei decessi dovuti a concause di coronavirus siano molto superiori a quelli che oggi noi registriamo ufficialmente. Quindi viene fuori certamente un dibattito che ci servirà e serve per correggere la rotta, perché siamo ancora in tempo a continuare a fare quello che non abbiamo fatto, cioè andare per esempio a fare dei tamponi ai familiari dei positivi o a fare i tamponi a coloro che sono in sorveglianza sanitaria perché hanno incrociato un positivo e il medico di base gli ha detto di stare a casa per 14 giorni, ma non sono sottoposti a tampone, così come non sono sottoposti a tampone nemmeno i familiari di coloro che sono in quarantena. Ed è evidente che questo può essere stato una delle concause della velocità della diffusione del coronavirus, perché non si è riusciti a isolare rapidamente le fonti del contagio. Così come sulle cosiddette paesi che hanno avuto dei dati anomali, da noi il virus è salito dalla bassa Lombarda, cioè Lodi, Cremona, poi Cremona verso Bergamo, verso Brescia. No, sicuramente Brescia è salito dalla bassa, abbiamo i dati evidenti, cioè l'infezione ha incominciato a svilupparsi tra la fine febbraio e i primi di marzo nella bassa bresciana e poi via via è salita, adesso sta arrivando addirittura all'Adamello, cioè alla Valle Camonica. Quindi anche lì probabilmente l'esperienza ci dice che le cosiddette zone rosse, e quindi non solo Codogno, ma si potevano costruire molteplici zone rosse proprio per confinare, perimetrare con maggiore rigore i territori dove c'erano dei cosiddetti dati anomali. E i provvedimenti che sono stati adottati e anche la scelta, la linea che è stata adottata di fare un provvedimento unico nazionale, secondo noi è stata, secondo noi vuol dire sindaci delle città capoluogo lombarde che avevano già scritto il 6 di marzo alla regione e al governo, non sono adeguate, perché si devono fare disposizioni diverse a seconda dei luoghi. Non è uguale la situazione che c'è a Brescia e la situazione che c'è a Palermo. È un buon punto. Maria, sindaco, prego. Sindaca, volevo intanto esprimere la solidarietà, la vicinanza a tutti i suoi cittadini e a lei, perché credo che non avrebbe mai potuto immaginare di sperimentare giornate di questo tipo. Però oltre al chiedersi che cosa si poteva fare e non si è fatto, cosa si può fare, questo, perché chiedersi che cosa si poteva fare è utilissimo, perché purtroppo il rischio pandemie non finirà col Covid-19, no? Potrà succedere ancora e speriamo che la lezione ci sia di aiuto per eventualità future, toccamo ferro, legno e tutto quello che si può. Ma le volevo chiedere qual è in questo momento per lei, per i suoi cittadini, l'urgenza. Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato il trasferimento di circa 500 infermieri nelle zone più colpite, quindi arriveranno anche a Brescia. Quanti ne arriveranno da voi e qual è la priorità per lei, la cosa che vi serve di più? Beh, certamente l'ha detta lei, nell'emergenza servono personale medico e personale infermieristico, perché la condizione dei nostri medici, quelli ospedalieri ma anche quelli di base, ma in particolare quelli ospedalieri, è spaventosa, perché lei tiene conto che ci sono medici che sono ormai 3 settimane che non fanno pausa, che lavorano 12 ore al giorno, infermieri, medici, che hanno bisogno di riposare, che hanno bisogno di essere sostituiti. Quindi la prima cosa, arrivino questi medici. Dovrebbero arrivare i primi 20-25 medici in provincia di Brescia in queste ore, dopo che Roma ha comunicato alla Regione Lombardia i primi 50 medici. Tenga conto che il meccanismo è così: Roma trasferisce i medici a Milano, e Milano decide come ridistribuirli sulle singole province. Il mio appello è stato alla Regione Lombardia che per favore questi medici vadano in provincia di Brescia, nella stragrande maggioranza dei casi, perché oggi noi siamo quelli, ancora più che Bergamo, che in termini assoluti è quella più colpita, ma sta incominciando a scendere, noi non abbiamo avuto dei segni particolarmente confortanti in queste giornate, quindi devono arrivare a Brescia. E quindi la prima cosa, personale medico e personale infermieristico. La seconda cosa è il gigante dei piedi d'argilla. Lombardia si è dimostrato un gigante dei piedi d'argilla perché qui è stato difficilissimo e ancora difficile recuperare i dispositivi di protezione individuale, cioè vuol dire le mascherine, vuol dire i guanti, vuol dire gli indumenti per il personale medico e infermieristico, ma anche per il personale che sta in prima fila, quello che fa il lavoro socio-assistenziale, quello che va nelle case, quello che fa il front office. Ecco, questo per esempio è clamoroso, cioè oggi noi abbiamo delle ditte che mi hanno spiegato producono al massimo 800.000 mascherine giorno, quando ne servirebbero solo per le strutture sanitarie lombarde 1 milione. Voi non eravate al corrente di queste falle nel sistema sanitario lombardo, che è sempre stato giudicato, e per chi ha avuto purtroppo modo di provarlo, è stato anche sempre all'altezza di grandi aspettative. Ci sono grandi medici, ci sono grandi strutture anche private. Perché secondo lei alla fine, come dice lei, è un gigante coi piedi d'argilla? In che senso? La fragilità iniziale? Certo. Intanto mi permetta, non è solo un problema arriverò anche sul tema sanitario, ma non è solo un problema sanitario. Cioè la industriosa Lombardia non è stata in grado in tempi rapidi di convertire una parte delle proprie aziende nella produzione di ciò che serviva. Questo non è un tema solo sanitario, è un tema che interroga il paese, il sistema paese, sul fatto che noi abbiamo una produzione che è molto molto condizionata dalle importazioni, anche per quel che riguarda dei beni di prima necessità. Però mi permette di dire una cosa, Del Bono. Allora, in una condizione normale, una mascherina di quelle, diciamo, che utilizziamo normalmente per andare in giro in questi giorni costa 0,08 centesimi alla produzione. Quindi capisce bene che è chiaro che in un paese come l'Italia è difficile avere una produzione di questo tipo, no? E renderla profittevole in tempi normali. E forse è mancata anche un po' di programmazione negli acquisti dall'estero, Del Bono. Certo. Adesso le rispondo subito. Guardi che non ci sono solo le mascherine per coloro che vanno a fare la spesa. Io sto parlando in particolare dei dispositivi di protezione individuale di natura medica. Cioè noi siamo entrati in crisi anche su quelli, Cioè, ed è su quelli che io, e lì non ci sono costi, vuol dire il valore, diciamo, aggiunto per ogni pezzo non è così basso. Cioè è che noi abbiamo costruito un sistema molto interconnesso col mondo. Quindi la globalizzazione ha dei grandi punti di forza, ma inevitabilmente fa emergere anche delle grandi fragilità, soprattutto quando i sistemi paesi si chiudono. Cioè quando ciascuno chiude al proprio interno i beni che gli servono, che è esattamente uno dei problemi che abbiamo avuto, cioè dispositivi di protezione individuale che venivano fermati ai confini perché ogni paese sta adottando provvedimenti autarchici, cioè di mantenimento dei beni di prima necessità al proprio interno. Guardi che è una riflessione che dovremmo fare. Quando voi avete ragionato sull'Europa, non c'è uno spazio europeo per quel che riguarda i dispositivi di protezione individuale, ci sono degli spazi nazionali. Forse questo era Germania che si è prodotta da sola i suoi ventilatori, che si è prodotta in gran parte da sola i suoi strumenti medicali, è quella che in questo momento, lei dice, Del Bono, ha problemi inferiori rispetto all'Italia, alla Spagna, alla Francia. Anche quattro volte i posti di terapia intensiva che abbiamo noi, peraltro. Certo. Poi adesso arrivo al tema sanitario. Il tema sanitario dove è emersa, diciamo, la maggiore fragilità, non tanto nelle strutture ospedaliere, perché bisogna riconoscere che strutture ospedaliere lombarde hanno reagito con straordinaria abnegazione, grandissima professionalità e competenza, quanto, diciamo, sulla rete della medicina di territorio, perché è lì che è emersa la difficoltà di una diagnosi rapida, di un intervento progressivo di isolamento e di valutazione della condizione del contagio e anche ancora oggi di aiuto e di sostegno, di cura per chi è ammalato a casa. intermedie, come qualcuno le ha definite, che non sono solo i medici di base, ma una delle strutture, diciamo, integrate a cavallo tra la medicina di territorio e la medicina ospedaliera, a quale le persone sono raggiunte fisicamente da dei medici e degli infermieri che verificano in casa la condizione. Questi sono gli elementi che vengono fuori, che sono sicuramente aspetti che dovranno essere discussi e valutati seriamente, perché ci sono delle falle nel sistema e quelle falle dipendono esattamente dalla struttura organizzativa gestionale. Del Bono, mi faccia tornare a chiudere sull'attualità. Dunque, la vostra proposta adesso, al momento, oltre alla richiesta che avete fatto di avere medici, infermieri e naturalmente materiale, c'è quest'idea lanciata dai sindaci del Milanese e non solo da loro, l'ha rilanciata anche il sindaco di Bergamo Gori, appunto, di tamponi più estensivi a tutte le persone con sintomi e, se positivi, estenderli ai familiari e a tutti i contatti recenti, posto che è difficile, perché sappiamo, leggevamo, che non ci sono nemmeno i reagenti, è difficile reperire anche i reagenti, e questa è la strategia da adottare adesso, Del Bono. Non abbiamo suggerito con Giorgio Gori, con Beppe Sala, con tutti i sindaci con cui ci sentiamo quotidianamente, noi non abbiamo suggerito tamponi a tutti, noi abbiamo suggerito delle platee mirate. Quali sono queste platee mirate? Innanzitutto il personale medico-infermieristico, lei deve considerare che gran parte del personale medico-infermieristico non è stato sottoposto a tampone e quindi indubbiamente il rischio che loro siano malati e che a loro volta siano, diciamo, moltiplicatori del contagio è stato fin dall'inizio uno dei temi delicati, cioè gli ospedali che rischiavano di essere a loro volta motori di contagio. Il secondo elemento è la seconda platea, riguarda i sorvegliati, cioè ma chi è in sorveglianza sanitaria obbligatoria perché il medico di base ha detto tu hai incontrato un positivo, stai lì 14 giorni in casa? È ragionevole pensare che sia sottoposto a tampone, quindi lui e i suoi familiari, in modo tale che si eviti che poi i suoi familiari escano di casa, vadano a fare la spesa, vadano evidentemente al lavoro e siano inconsapevolmente portatori del virus. Quindi platee mirate, non pensiamo a platee diffuse, così come nell'RSA sicuramente, dove ci sono dei casi di positività, verificare sul personale di personale socio-assistenziale e su almeno le persone che convivevano nella stessa stanza, cioè si può lavorare su delle platee mirate, ovviamente più estese di quelle che oggi abbiamo conosciuto. Certo. E questa è la proposta. Questa è la vostra proposta. La ringrazio e grazie Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, per essere stato con noi. Buon lavoro, in bocca al lupo per questi giorni, che sono difficili. Una pausa e poi veniamo agli aspetti economici, qualche dettaglio in più anche sul decreto, su quello che succede. Sono arrivate tante domande anche da voi su come ottenere anche i benefici previsti dai provvedimenti. A tra poco. Mattino. Marco Leonardi è un economista ed è consigliere del ministro Gualtieri, professore di economia alla Statale di Milano, Università Statale di Milano. Leonardi, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Maria, prego. Buongiorno Leonardi, allora abbiamo più volte citato l'intervista dell'ex presidente della BCE Mario Draghi al Financial Times e Mario Draghi dice quello che da più parti si dice: serve più debito pubblico per proteggere i cittadini e i bilanci e bisogna agire velocemente perché sennò ci sarà la depressione. Oggi è in programma un vertice europeo molto importante e da quello che si deciderà lì e nei giorni a seguire si capirà anche quanto aiuto potrà essere portato ai cittadini italiani e alle imprese. Senza questo aiuto, come dire, le chiacchiere stanno a zero perché prima o poi, si spera più prima che poi, il virus verrà battuto e noi ci ritroveremo delle macerie nelle aziende, nelle case delle famiglie con tanti disoccupati. Non voglio fare questo scenario negativo, voglio guardare il bicchiere mezzo pieno e il fatto che ci sia una comprensione generale del tema. Appunto, se lo dice Mario Draghi, lo dice Ursula von der Leyen, noi abbiamo, come Italia, insieme ad altri paesi che hanno firmato la lettera che è stata inviata, noi abbiamo la forza di ottenere concrete misure dall'Europa, nonostante le riluttanze tedesche, olandesi e di altri paesi del nord? Ma Guardi, secondo me le cose sono cambiate radicalmente da quando questo shock, questo evento del coronavirus ha colpito tutti, cioè noi in realtà siamo stati quelli colpiti per primi, quelli che hanno fatto per primo la scelta anche dolorosa di strategie di contenimento molto severe, molto serie, tra l'altro proprio di ieri l'ultimo decreto che restringe ulteriormente le attività produttive, diciamo, essenziali. E poi siamo stati i primi anche a spendere i soldi, perché ricordiamoci che tutti i numeri che girano, Germania, Francia, Spagna, sono tutti annunci ma non sono ancora spesi. Noi invece abbiamo già speso 25 miliardi che sono nostri, diciamo, ed è vero quello che dice lei, il prossimo giro, cioè il decreto aprile, che comunque dovrà arrivare prima del 16, perché le scadenze fiscali sono il 16 di aprile, quindi per qualunque rinvio o sospensione di tributi bisogna arrivare prima del 16, anche qualche giorno prima, e quello non si può fare senza, diciamo, soldi europei, tra virgolette. Come e quanti soldi europei arriveranno, questo è ancora da decidere, ma io mi immagino che, siccome siamo tutti nella stessa barca e siccome tutti adesso dicono la stessa cosa, anche Mario Draghi, anche la von der Leyen, come ha detto lei, non dubito che arriveranno. Allora, Leonardi, al di là delle macro questioni, no? Ci sono delle questioni che hanno a che fare più strettamente, poi sono collegate ovviamente con il nostro paese, insomma, sì. Con quello che succede, con quello che succede sì, alle... se non ci danno i soldi non riusciamo a fare le cose che devono essere fatte. Con quello che succede alle singole persone, insomma, che insomma sono un po' smarrite in questo periodo. Ci scrivono spesso artigiani, lavoratori autonomi. Tra l'altro ne abbiamo uno in linea, Costantino, ma tra un attimo lo sentiremo. Che ci dicono, insomma, tutte queste cose che sono state annunciate, questi 25 miliardi messi sul piatto, i 600 euro per gli autonomi, i sostegni al reddito, le moratorie su prestiti, mutui, quando entra in vigore questa roba? Perché c'è gente che è già andata in banca, ha chiesto la moratoria e gli hanno detto no, guardi, aspetti un attimo. Guardi, la cassa integrazione è operativa, in realtà si può già fare e poi è retroattiva, cioè la circolare dovrebbe uscire oggi e quindi da oggi, diciamo, la causale Covid per la cassa integrazione dovrebbe essere disponibile, ma uno che avesse già chiesto la cassa integrazione gliela convertono in Covid in corso, tanto per essere chiari, quindi si può già fare sostanzialmente. La moratoria anche mi risulta che, insomma, le misure sono state prese. Ieri è stato firmato il decreto sul fondo Gasparrini, che è sostanzialmente la moratoria per i mutui prima casa per le persone fisiche, non per le ditte, non per le aziende, ma è tutto in esecuzione, quindi anche questo non dubiterei che queste scadenze sono sicuramente bloccate. Quindi quelli sono i famosi 340 miliardi di cui si parla, che poi vanno confrontati con i 550 miliardi, sono quelle cifre astronomiche che non sono spesa vera, ma sono sostanzialmente blocco di debiti, cioè chi ha un debito, un mutuo, un finanziamento, un leasing che deve restituire adesso non lo restituisce ed è posticipato, e questo blocca 240 miliardi, mi sembra, di debiti. E poi c'è l'apertura di nuove linee di credito garantite, che sono altri 100 miliardi. Questo fa i famosi 340 miliardi che la manovra mobilita, insomma. E questo è anche la misura che va confrontata con i famosi 550 miliardi della Germania contro gli altri miliardi che hanno annunciato la Germania e la Francia. Questo è il termine di paragone, sì. Non è... che la Germania, perché tutti dicono ma la Germania spende adesso 550 miliardi, no, non è vero, la Germania mobilita 550 miliardi come noi ne mobilitiamo 340 diceva lei, sì. Garantiamo nuovi crediti alle imprese e anche agli individui, anche ai professionisti singoli, e blocchiamo, facciamo moratoria. Lei è anche un esperto di pensioni, c'è un po' di inquietudine, no? Tra coloro i quali in questi giorni si aspettano di riceverla. Il presidente dell'INPS Tridico ha ribadito sul Sole 24 Ore che le pensioni verranno pagate, ma ci può dire qualcosa di definitivo sui fondi di cui lo Stato dispone e se possiamo prevedere che le pensioni vengano pagate anche dopo maggio? Guardi, io non sdrammatizzerei, nel senso che poi le cose vengono interpretate in malo modo, dal click day alle pensioni. Non è così, nel senso Tridico non ha detto, giriamola così, Tridico dice una cosa giusta, attenzione che ovviamente non si può pretendere che nessuno paghi più le tasse, tanto per essere chiari, perché adesso siccome c'è il virus, se noi concedessimo di cancellazioni fiscali a tutti, siccome le entrate sono 500 miliardi in anno, è chiaro che a quel punto, non avendo entrate, non puoi avere neanche i soldi per pagare le pensioni, ma non è questo il caso. Infatti noi ci guardiamo bene da cancellare tasse, per adesso le sospendiamo, le spostiamo più in là, ma non perché non vogliamo, perché nessun paese può farlo, perché sennò poi dopo un certo punto il problema diventa reale. Ma state tutti tranquilli che la nostra principale occupazione adesso è tenere gli occhi sulle entrate e le uscite, quindi faremo di tutto perché ovviamente si continuino a pagare pensioni e stipendi, altrimenti è ovvio che il paese andrebbe in default. Costantino da Genova, buongiorno. Rapido. Sì, buongiorno. Niente, io rappresento uno dei tanti chiusi per decreto e giustamente la salute va tutelata prima di tutto, però io non capisco come si fa ad abbandonare 5 milioni di partite IVA che vivono del lavoro che fanno ogni giorno e quelli che dicono ma 15 giorni, 20 giorni, un mese di chiusura non fanno la differenza. Non è vero, perché le persone vivono di quello che fanno e per fare pareggio spesso devi fare 30 su 30, non 15 su 30. Adesso si pone un problema, innanzitutto è stato dato un credito d'imposta per quanto riguarda le locazioni a chi deve pagare l'affitto che non ha lavorato, quindi spiegatemi come farà a pagare l'affitto. Questa manovra, questa situazione si poteva risolvere dando il credito d'imposta a chi deve riceverlo l'affitto, cioè poteva benissimo avere un credito d'imposta. Ed è uno dei tanti elementi, però mi sembra di capire, Costantino, che lei lamenti, è un tema che qua abbiamo affrontato più di una volta, Leonardi, non dico l'abbandono proprio delle partite IVA e dei lavoratori autonomi, ma di certo un'attenzione diversa sugli autonomi rispetto all'attenzione concessa ai lavoratori dipendenti. Guardi, secondo me questo è però un errore, cioè il punto è questo semplicemente, e i professionisti, poi ci sono diversi professionisti, diverse partite IVA, diciamo quelli singoli, senza dipendenti, ci sono quelli che sono gestione separata, sono gestiti dall'INPS, sì. E quindi rientrano in tutti, per esempio i 600 euro, siccome dovendo regolarli di fretta, anche questi saranno nella domanda disponibile settimana prossima, quindi i 600 euro arriveranno nel corso di aprile, quelli a gestione separata stanno sotto INPS, quelli diciamo ordinisti o quelli che stanno nelle casse professionali non saranno gestiti da INPS perché appartengono alle casse professionali e non a INPS, sì. E questa è l'unica difficoltà, ma avranno i 600 euro anche loro, sì. Non si preoccupino, in più i professionisti hanno la moratoria dei debiti come gli altri, hanno i crediti, hanno 3.000 euro di credito garantito all'80%, hanno tantissime cose, non è che non abbiamo lasciati fuori, è chiaro che gli strumenti, quelli per esempio già pronti, per esempio la cassa integrazione ovviamente copre i dipendenti, ma noi abbiamo fatto i 600 euro proprio per aiutare tutti gli autonomi che stanno fuori. Ma farete qualcosa di più per loro? Farete qualcosa di più per loro, Leonardi? Avete intenzione di fare qualcosa di più? Qualcosa di più nel senso più dei 600 euro, più della moratoria, sì. Più del credito, sì. Ha favorito, più di tipo? No, io chiedo a lei, l'economista. Perché se voi avete sentito, perché se avete delle richieste particolari solo per i professionisti, magari solo per quelli ordinisti, mi sembrerebbe una cosa particolare, perché non sono stati trattati, non verranno trattati diversamente da, per esempio, dai professionisti a gestione separata, che sono semplicemente dei professionisti che non stanno nelle casse professionali, non so, quelli che non sono. Quelli che fanno il web designer o il fotografo non stanno nella cassa degli avvocati, dei commercialisti, li devo trattare diversi? No, li sto trattando esattamente uguali, li sto trattando come gli artigiani e i commercianti. quindi a tutti i crediti d'imposta, a tutti la moratoria, a tutti il credito favorito, a tutti i 600 euro. La difficoltà è stata solo tecnica su questi 600 euro agli ordinisti, perché semplicemente quelli non sono gestiti da INPS, quindi la macchina INPS non li serve in maniera automatica. Questa è l'unica difficoltà, per il resto tutti uguali ovviamente. Leonardi, quello che ci colpisce, no? è che il coronavirus è arrivato senza che ci fosse un protocollo col quale affrontarlo. I paesi non erano preparati, non era preparata l'Italia, che era ferma ad un protocollo del 2015 quando c'era stata la SARS, ma era evidentemente superato, non era preparata la Francia, non era preparata la Gran Bretagna. E va bene. Ora però da più parti si comincia a dire: guardate che se quest'estate il coronavirus sarà battuto, poi noi quest'estate, questa tarda primavera, noi dovremo essere pronti a far ripartire la macchina delle imprese, delle aziende, perché anche chi ha la partita IVA riceve una commissione di lavoro se l'azienda riparte, se non riparte no. Da più parti, e cito uno studio di alcuni economisti, tra cui Andrea Ichino, si suggerisce di far rientrare al lavoro a scaglioni, cioè prima i più giovani, i quali, secondo questa proposta di Ichino e di altri economisti, potrebbero tornare al lavoro in tutte le aziende, essendo forse meno a rischio, ma con tutta una serie di precauzioni. Ichino si spinge a immaginare che siano requisiti degli hotel per far andare tutta questa massa di giovani lavoratori. È una proposta come un'altra, però quello che mi chiedo è: in questo momento di emergenza c'è qualcuno che sta cominciando a pensare al dopo? Ho visto la proposta di Echino e di tanti altri, in realtà è sempre molto acuta e intelligente. Qualche paese, credo Israele, ha fatto queste scelte per età, non mi risulta che altri paesi abbiano fatto scelte per età, ma io non sono esperto di sanità, diciamo, però in realtà noi abbiamo scelto un altro criterio, nel bene e nel male, anche questo sicuramente molto criticabile, ma abbiamo scelto quello dei settori essenziali, non abbiamo scelto per età. Ora, come avete visto, ieri è stato approvato l'ultimo decreto che dice quali sono le attività essenziali, e sostanzialmente quelle aperte corrispondono più o meno a metà dell'occupazione dipendente italiana, cioè da oggi dovrebbero essere al lavoro solo la metà dei lavoratori dipendenti, l'altra metà, diciamo così, considerata non essenziale, anche se così detto sembra un po' brutto, deve stare a casa, nel senso che dovrebbe essere chiusa, no? Al netto di qualche eccezione, ma insomma è inutile che ci dividiamo. Però in realtà questo è il punto: abbiamo chiuso metà delle attività produttive, quindi abbiamo scelto un altro criterio che non è per età. Sicuramente interessante quello per età, era un'alternativa, anche qui nessuno ha la bacchetta magica, noi tutti ci muoviamo, ma tutti i paesi ci muoviamo in condizioni di incertezza totale. Quello che posso dire è che noi per primi abbiamo scelto questa linea molto severa e molto dura, e gli altri adesso ci stanno seguendo, anche perché forse ci stanno seguendo nel contagio, diciamo. Penso che stiano anche imparando dai nostri errori, purtroppo essere i primi certe volte, o i secondi dopo la Cina, diciamo, che però ha altre caratteristiche, cioè in Cina si possono fare delle cose e in Asia in generale si possono fare delle cose che in Italia probabilmente non si possono fare, quanto a contenimento. Però insomma, questo è il punto vero, noi abbiamo scelto questa strategia degli ATECO, dei settori di attività essenziali o meno essenziali, e lì il punto è tranquillizzare le persone che ovviamente al netto delle zone più critiche, che sono quelle certamente le province, Bergamo, Brescia, quelle dove ci sono più contagi, lavorare nelle attività essenziali deve essere assolutamente sicuro, c'è un protocollo per cui si può lavorare se sei a distanza, se c'hai la mascherina, e c'è il coinvolgimento sindacale, non per altro ma perché è necessario, nel senso che la gente non deve aver paura di andare a lavorare, sennò capite che manco le cose essenziali si riescono a fare. Questo è il punto vero. Allora, grazie Marco Leonardi per essere stato con noi, consigliere del ministro Gualtieri, professore di economia alla Statale di Milano. E andiamo a parlare con un esponente dell'opposizione rapidamente negli ultimi 5 minuti. Siamo con Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, che tra l'altro è bresciana, quindi immagino che queste ore le stia vivendo con particolare ansia. Gelmini, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno Gelmini. Buongiorno. Prego, Maria. Ecco, proprio da bresciana, sì. Dalla prossima settimana il Parlamento sarà chiamato a esaminare i vari decreti che sono stati messi in campo dal governo per l'emergenza sanitaria. Il presidente Mattarella invita all'unità, c'è poco tempo da perdere. Lei che cosa sceglierà di fare? Opposizione dura o un atteggiamento di collaborazione, di unità, come, ripeto, viene richiesto non soltanto dal presidente Mattarella, ma anche dagli italiani, almeno stando ai sondaggi? Noi abbiamo scelto da subito, ancora prima del richiamo del presidente Mattarella, un atteggiamento costruttivo. Abbiamo votato il primo provvedimento sull'emergenza sanitaria, siamo stati determinanti con i nostri voti per raggiungere la maggioranza assoluta sullo sforamento dei vincoli di bilancio di finanza pubblica, e abbiamo fortemente voluto un tavolo con il presidente Conte e con i ministri dell'economia per affrontare i vari decreti economici. Quindi le nostre proposte sono state formulate e noi abbiamo detto da subito che, per esempio, il Cura Italia in realtà non tiene in adeguata considerazione il lavoro autonomo, le partite IVA, le imprese. Abbiamo formulato delle proposte e le abbiamo consegnate al governo. È chiaro che per collaborare non basta chiedere all'opposizione responsabilità, bisogna poi che queste proposte, che sono anche il frutto di un dialogo con i ceti produttivi, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, si traducano in atti concreti. Ad oggi abbiamo ricevuto dal governo una disponibilità formale, ma nella sostanza il tutto si muove a saldi invariati, cioè il Cura Italia, ci ha già detto il ministro Gualtieri, che non vedrà dei cambi sostanziali nel posizionamento delle risorse, e quindi di questo siamo dispiaciuti. Ci auguriamo che il prossimo decreto, che dovrebbe essere emanato ad aprile, sì, veda un coinvolgimento non formale ma nella sostanza non solo dell'opposizione ma di tutto il paese, perché occorre coinvolgere le imprese, occorre coinvolgere le parti sociali, tutti gli attori, non solo l'opposizione. Gelmini, che cosa ritenete che debba essere inserito nel decreto di aprile, in particolare delle vostre proposte, cioè che cos'è che ritenete più urgente? Beh, noi riteniamo urgente andare incontro al problema di liquidità delle imprese. Le imprese hanno uno straordinario problema di cassa e se noi oggi non salvaguardiamo il tessuto produttivo del paese, rischiamo poi di dover impiegare delle risorse per sovvenzionare i disoccupati. Quindi concretamente come, mi scusi? Concretamente vuol dire aumentare la postazione degli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, e vuol dire soprattutto attivare il fondo centrale di garanzia, che oggi è previsto nel Cura Italia ma con tantissimi vincoli ed escludendo le medie imprese. Invece noi pensiamo, come ha detto Draghi nella suo pezzo sul Financial Times, che non bisogna distinguere tra piccole, medie e grandi imprese. Noi le dobbiamo salvare tutte, perché se non salviamo le imprese creeremo una disoccupazione enorme, poi dovremo sovvenzionare i licenziati. Quindi ad oggi è chiaro che l'Europa ci, certo, deve dare una mano. Però la strada, appunto, deve essere quella di dare liquidità alle imprese. Quello che volevo verificare con lei è quanto Forza Italia, che in Europa pesa, che ha avuto un presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, insomma, quanto Forza Italia sarà accanto al governo nel sostenere le richieste italiane, che sono uguali a quelle di altri 8 paesi, dalla Francia al Lussemburgo, sì, per capirci, per ottenere questi fondi, perché è chiaro, sì, che o arriva il cosiddetto piano Marshall europeo, sì, che è un po' una contraddizione perché piano Marshall, sì, era americano, oppure i soldi non ci saranno. Quanto Forza Italia sosterrà il governo in Europa? E rapidamente Gelmini. Sarà totalmente a fianco dell'Italia e a fianco di un'Europa diversa. Noi oggi purtroppo ci scontriamo con un'Europa a trazione tedesca, lo abbiamo visto anche nell'ultima riunione dell'Eurogruppo che si è risolta con un nulla di fatto. Occorre abbandonare il rigore, occorre abbandonare i vincoli di finanza pubblica e investire nell'economia, nella crescita e nello sviluppo. Su questo Berlusconi e Tajani non solo sono al fianco di Conte, ma hanno dialogato con la Presidente della Commissione Europea, hanno dialogato con la BCE, hanno dialogato all'interno del Partito Popolare Europeo, dove ci sono delle resistenze, per far prevalere la linea della crescita e dello sviluppo. Credo quindi che il nostro posizionamento nel PPE sia decisivo per cambiare la linea in Europa. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Maria Stella Gelmini di Forza Italia. Maria, ci sentiamo domani alle 8:20 con gli ascoltatori, domani alle 6:30. Ciao.